Letture di Radio 24. Verità o falso storico? In un libro di recente pubblicazione, lo storico Andrea Nicolotti entra nel dibattito sulle origini della Sacra Sindone. Ecco il commento di Sergio Luzzatto dalle pagine del domenicale del Sole 24 Ore. Ponendosi da un punto di vista strettamente documentale, alla Sindone di Torino non si può certo attribuire una storia precedente la metà del XIV secolo. Questo il parere non già di un ista più o meno sospetto ai devoti, a scelta un relativista o un revisionista, un laicista o un medievista, ma di Gian Maria Zaccone, il direttore del Museo della Sindone di Torino. Sul dopo gli storici concordano. A metà del 300 il tessuto che tanti buoni cristiani venerano come il sudario di Cristo apparteneva a un nobile francese nella regione di Troyes, tale Geoffroy de Saint-Ry. Fu acquistato dal duca Lodovico di Savoia nel 1453 e raggiunse Torino nel 1578. Sul prima, gli storici devono arrendersi all'evidenza. Quand'anche rifiutino di accogliere i risultati degli esami al carbonio 14, in base ai quali il Sacro Lino è databile fra il 1260 e il 1390, devono riconoscere a tutt'oggi mancante qualunque documento che ne provi un'esistenza anteriore. Ma allora perché un paio d'anni in qua una campagna mediatica ha strombazzato le presunte scoperte di Barbara Frale, addetta dell'archivio segreto vaticano, secondo cui sarebbe dimostrato un processo duecentesco della Sindone da parte dell'ordine religioso militare dei Templari? E come ha potuto la casa editrice del Mulino suggellare con il prestigio del suo marchio le tesi infondate dell'autrice di I Templari e la Sindone di Cristo e la Sindone di Gesù Nazareno? In altre parole, come si fabbrica una mistificazione storica e come la si rende credibile nell'Italia del terzo millennio? Chi sia curioso di risposte farà bene a leggere un volumetto pubblicato dalla Salerno Editrice. Lo ha scritto uno storico del cristianesimo, Andrea Nicolotti, che lo ha intitolato I Templari e la Sindone, storia di un falso. Dove il falso, si badi, non sta nel Sacro Lino, di cui Nicolotti non pretende affatto di dimostrarne l'autenticità. Il falso sta nella storia pseudoscientifica che ha argomentato un passaggio della Sindone dalle mani dei crociati, che nel 1204 saccheggiarono Costantinopoli, a quelle dei cavalieri del Tempio, che intorno alla Sindone avrebbero costruito un culto segreto sino a quando furono arrestati in massa nella Francia del 1307 per ordine del re Filippo IV il Bello, salvo riuscire rocambolescamente a nascondere la Sindone stessa, affidandole alle cure della famiglia Chanry. Una presenza del sudario nella Francia duecentesca resta materia di pura speculazione. Fra le oltre 1000 deposizioni rilasciate dai cavalieri del Tempio dopo il loro arresto e rese più o meno dubbie dall'essere state ottenute con la tortura, soltanto una manciata evocava l'esistenza di un idolo barbuto che i Templari veneravano durante la loro cerimonia di iniziazione. E soltanto una di queste deposizioni, una, sembrava descrivere l'idolo come un oggetto di stoffa piuttosto che di legno. Dopodiché, neanche quest'unica deposizione riguardante un fantomatico tessuto regge alla prova del sapere paleografico e di un dizionario di latino correttamente maneggiato. L'intera scoperta di Barbara Frale si fonda sulla selezione arbitraria, sulla lettura imprecisa e sull'interpretazione tendenziosa di 5 o 6 interrogatori di altrettanti cavalieri del Tempio nella Carcassonne del novembre 1307. Se non che, nell'Italia di 7 secoli dopo, una compagnia di giro fatta da storici della domenica e giornalisti di bocca buona, vaticanisti in libera uscita e bloggers occultisti, ha salutato le fantasie di Frale come tesi scientifiche, precipitandole nel calderone comunicativo di un misterico dove la Sindone e i Templari fanno tutt'uno con le profezie di Nostradamus, le stigmate di Padre Pio, il terzo segreto di Fatima, l'ultimo miracolo di Papa Wojtyla e chi più ne ha più ne metta. Ancora meno seriamente vanno prese le fantasie che riconoscono passaggi della Sindone in aree geografiche di attestata presenza dei Templari, ma diverse dalla Francia. Un bassorilievo raffigurante la testa di un uomo con la barba nel fortilizio di Safed in Terra Santa? In realtà una raffigurazione di San Giorgio. Un pannello ligneo medioevale con un'altra immagine di un uomo barbuto ritrovato in Inghilterra nel 1945? Assai più probabilmente un ritratto di San Giovanni Battista. Una lettera sulla tela di lino nella quale nostro Signore Gesù Cristo fu avvolto dopo la morte, ricevuta da Papa Innocenzo III nel 1205? Fino a prova contraria, l'opera di un falsario ottocentesco. Il libro di Nicolotti andrebbe adottato in ogni corso universitario di metodologia della ricerca storica, perché contiene una dimostrazione formidabile di come si lavora sulle fonti e soprattutto di come non si lavora. Ma la storia di un falso andrebbe letta anche nei corsi universitari di scienze della comunicazione, perché testimonia l'avventatezza, la corrività, l'ignoranza che troppo spesso governano la divulgazione del sapere nell'Italia contemporanea. Benvengano dunque gli aculei di questo libro della Salerno, secondo il nome della nuova collana storica cui il volume appartiene. E benvenga al limite il sarcasmo finale di Andrea Nicolotti. Se ciascuno è libero di ipotizzare ciò che vuole e pretende di spacciare per storia le proprie elucubrazioni, mi sentirei libero di suggerire che la Sindone sia finita a Roma, avvolta in una tovaglia d'amianto proveniente dalle montagne del Turkestan e mandata in dono al Gran Khan. Io almeno avrei una fonte, lo dice Marco Polo. Proprio così. Se viviamo in una New Age della cultura dove un professore di storia medievale, geniale o mediocre che sia, è soltanto un Dan Brown che ha fallito, e se alla fiera mediatica dei misteri svelati vince chi la spara più grossa, ben venga anche una storia della Sindone riscritta a partire dal milione di Marco Polo. Quivi è montagne ove ha buone vene d'acciaio e d'andanico. E in queste montagne è un'altra vena, onde si fa la salamandra. Questa si fila e fassine panno da tovaglie. Anco vi dico che a Roma ha una di queste tovaglie che il grande cane mandò per grandi presenti, perché il sudario del nostro Signore vi fosse messo entro. Avete ascoltato la lettura del commento di Sergio Luzzatto al libro di Andrea Nicolotti, I Templari e la Sindone, dall'inserto Domenica allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Tunnel o piscina? Gli abitanti di una cittadina della Germania del Sud sono scesi in piazza per chiedere che il nuovo tunnel stradale sia intitolato a Bud Spencer. Ma dato che l'attore, popolarissimo in Germania, è stato in passato anche un campione di nuoto, il consiglio comunale vorrebbe dedicargli invece la nuova piscina. Come andrà a finire? Gridavano «Altrimenti ci arrabbiamo!» Proprio come il titolo di uno dei film più famosi di Bud Spencer, i manifestanti che sono scesi in piazza lunedì a Schwäbisch Gmünd, cittadina del Baden-Württemberg, che si trova a 50 km da Stoccarda. E avevano ragione, perché la volontà popolare va rispettata. In un referendum online, la maggioranza dei cittadini votanti si era espressa per dedicare all'attore italiano il nuovo tunnel stradale appena finito di costruire. Niente compromessi, come quello annunciato ieri al termine del Consiglio Comunale, dove 42 consiglieri si sono espressi a favore e 7 contro. Dare il nome dell'eroe di Piedone lo Sbirro alla piscina del paese. Come andrà a finire? È quasi scontato. I tedeschi sono obbedienti, quasi tutti i partiti sono decisamente per l'opzione di riserva e in fondo il partner di Terence Hill è stato anche un grande nuotatore. Le immagini della manifestazione, precedute da un fitto tam-tam su Facebook, sono finite perfino sul compassato Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il sindaco, il cristiano democratico Richard Arnold, si è difeso sostenendo che nella consultazione su internet avevano votato anche tanti forestieri. Una verifica finale è prevista a settembre, ma per i ragazzi del tunnel la sconfitta, come dicevano, sembra molto probabile, sempre che non intervengano i Verdi a mettere i bastoni tra le ruote. In un primo tempo la portavoce locale Brigitte Abele aveva detto che sarebbe stato difficile ignorare i risultati del referendum. Ma l'impressione è che questa cittadina, famosa per i lavori artigianali in argento, sia destinata a tornare alla sua tranquillità. Non è nemmeno brutta Schwäbisch Gmünd, con la sua storica piazza del mercato, il municipio, le verdi colline che la circondano. L'unico legame con il mondo del cinema che aveva avuto fino ad oggi era stato quello di essere il luogo dove fu battezzato l'attore Peter Ustinov, figlio di un russo tedesco che lavorava a Londra per i servizi segreti britannici. Ma c'è chi racconta che Bud Spencer, che prima di prendere il suo nome d'arte dalla birra Budweiser e da Spencer Tracy, si chiamava Carlo Pedersoli ed è stato il primo atleta italiano a scendere sotto il minuto nei 100 metri stile libero, un giorno abbia fatto una gara nella piscina di Schwäbisch Gmünd. Anzi, tra i ragazzi del tunnel meno giovani, c'è chi dice di averlo conosciuto e di avergli stretto la mano. E metteteci questo e aggiungete il vero e proprio culto che esiste per lui in Germania, dove per esempio c'è un gruppo musicale che si chiama Spencer and Hill e si spiega la rivolta che hanno scosso il Baden-Württemberg. L'autobiografia Mein Leben, meine Film ha venduto oltre 100.000 copie ed è stata per settimane in testa alla classifica dei best seller. Non è difficile vedere in giro ragazzi con la sua faccia sulla maglietta o addirittura tatuata sulla pelle. E lui che pensa di questa storia del tunnel? Sembra che abbia fatto sapere di essere molto onorato di vedersi intitolata anche la piscina. Se non avessi fumato, nei 100 stile libero, ha detto spesso, sarei stato tra i primi 3 nel mondo. In Germania lo amano e lui ricambia questo amore. Ha anche avuto una bambinaia tedesca, ma in realtà le 3.000 lettere che questo gigante 81enne riceve ogni mese gli arrivano da tutto il mondo. Perché, ha detto in una recente intervista, io e Terence Hill, un amico con il quale non abbiamo mai litigato, abbiamo scoperto il comic western. Ce lo hanno copiato poi gli americani. Nacque ispirandosi al cinema muto, alla gestualità di Chaplin e Buster Keaton, che fanno ridere senza parlare. Con quella vai ovunque nel mondo. La comicità di parola rischia di farti rimanere nei confini. Poi è piaciuto il mio personaggio, perché ognuno di noi ha qualcuno a cui darebbe un cazzotto in testa e io lo faccio in modo comico. E poi la gente, come insegna questa vicenda, ha soprattutto molto bisogno di sorridere. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paolo Lepri, Il paese che scende in piazza per il tunnel a Bud Spencer, dal Corriere della Sera del 29 luglio.